Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, buonasera. Se sono le 6.45 e magari vi siete svegliati da poco, o seppure siete in ascolto alle 20.45 e quindi vi avviate al termine della serata. La mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, che è Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, come avevamo iniziato ieri la nostra chiacchierata sul racket e l'usura, due piaghe di questo nostro paese, in questo modo, sentite. Il cancro è una malattia subdola che si insinua senza dare segnali e poi cresce fino a distruggere, ma può essere sconfitto con una diagnosi precoce. Anche il racket è un cancro che entra nella tua attività in maniera quasi indolore, per poi espandersi fino a soffocarti. È il momento di dire basta. Grazie all'impegno delle associazioni anti-racket e delle istituzioni, oggi anche tu puoi denunciare in sicurezza e ritrovare la tua libertà. Noi lo abbiamo già fatto, ora tocca a te. Telefona e riceverai un aiuto, perché insieme possiamo finalmente dire basta! Se hai bisogno di aiuto, visita il sito www.antiracketpuglia.it o chiama l'associazione Antiracket Antimafia Provinciale a Molfetta al 329 3616 000. Allora, ieri abbiamo parlato proprio con il presidente dell'Antiracket in provincia di Bari, Renato De Sciscioli. Ricordavamo le pesanti minacce alle quali da anni è sottoposto per il semplice fatto che lui l'antimafia non lo fa come la fanno in tanti a parole, ma le fa con i fatti. La fa con i fatti, camminando, prendendo la sua auto, girando la provincia di Bari, girando la Puglia e ricordando a tutti gli imprenditori, commercianti e artigiani che oggi lo Stato non lascia solo chi denuncia. E se andate a visitare il sito che abbiamo lanciato anche con questo spot radiofonico che va sulle emittenti locali, il sito è antiracketpuglia.it, troverete anche sulla destra un bel vademecum sui benefici di legge a favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura. Abbiamo promesso che saremmo stati accanto a De Sciscioli e a tutti coloro i quali vengono minacciati. Continuiamo a farlo con lui e lo faremo anche con chiunque altro si trovasse in questa condizione. Del resto l'abbiamo fatto anche nel passato, perché il cancro della criminalità organizzata ha bisogno di tanti anelli di legalità. Noi siamo un piccolo anello di questa catena di legalità. Vi avevo promesso che avremmo ascoltato una testimonianza, una storia. Ebbene, ho al telefono collegata Angela Castellano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Angela Castellano è un'imprenditrice bitontina che fino a circa 8 anni fa era una vittima dell'usura, dico bene? Sì, sì, dice bene. Dice quindi bene. Vuol dire che lei si era piegata a questa, come dire, a questo male, a questo cancro, come abbiamo sentito. Ecco, una domanda che probabilmente l'hanno fatto milioni di persone. Ma perché si è rivolta agli usurai e non si è rivolta ad una banca? Allora, praticamente questa non è una cosa che ho fatto io, ma è una cosa che ho ereditato dal mio ex marito, perché il mio ex marito giocava alle carte. Ah. E quindi le attività erano intestate a me, quindi di conseguenza ho dovuto pagare io in prima persona questa cosa. Il mio ex marito si è rivolto a queste persone, non alle banche, perché era più facile, nel senso che lui era anche stato approcciato nel momento in cui aveva bisogno, quindi era più facile chiedere a questa gente e continuare a fare quello che... Ho capito. Ecco, vogliamo dire chiaro e tondo, come hanno detto chiaro e tondo altri imprenditori che sono venuti ai nostri microfoni, che non c'è modo di uscirne quando si è vittima di racket e usura? Ripeto, non c'è modo di uscirne se non denunciando? Non ne vieni più fuori, quindi la cosa più giusta da fare è denunciare. Nel momento in cui si denuncia si incomincia a rivivere, proprio si respira un'aria completamente diversa. Signora Castellano, le chiedo questo, uno dei pregiudizi che si hanno quando si sentono testimonianze come la sua sono quelle che poi ricominciare è difficile. Nel momento in cui si denuncia, sì, è poi... difficilissimo. Ecco, ci spieghi perché è difficilissimo? Perché comunque già ci si trova di fronte a, diciamo, a un paese che comunque c'è chi approva e chi non approva, chi dice hai fatto bene, hai fatto male, chi comunque è schierato anche dalla parte di queste persone, quindi viene additato. Poi non hai anche legami con le banche, quindi non ti aiutano e quindi non hai la possibilità di rimetterti in gioco e devi rimboccarti le maniche e andare avanti con ecco, quello che sei. Vorrei come dire, continuare con lei su una cosa che mi ha colpito, cioè lei dice a Bitonto, Bitonto può essere anche Lodi, Lecco piuttosto che Avellino o Catania, c'è un paese spaccato in due, c'è chi ti dice bene, bravo, hai fatto bene, continua così, che per me dovrebbe essere la norma, e c'è chi invece ti guarda storto. Ecco, ma perché c'è una cultura da sconfiggere oppure perché ci sono legami magari con le persone che poi vessano? Allora, per me ci sono sia una cosa che l'altra, c'è una cultura che comunque è difficilissima anche da poter stroncare e poi ci sono dei legami a queste persone che ovviamente sono difficili lo stesso nella stessa assolutamente maniera da potersi. Certo. Signora Castellano, la sua attività imprenditoriale è quella di? Io adesso faccio l'estetista. Quindi è un punto anche, diciamo così, di incontro, no? Incontro, di socializzazione, sì. Certo, sì. E di chiacchiera anche, se vogliamo. Sì, vogliamo sì anche. Ecco, ma di chiacchiera intesa, non chiacchiera da gossip, è proprio intendo dire di scambio di vedute. E i clienti e le clienti che vengono da lei ci vengono più volentieri oppure meno volentieri di quello che accadeva nel passato? No, no, sono aumentate molto le mie clienti, hanno una stima veramente grande di me. Veramente. Allora, mi passi una battuta, vuol dire che forse è più facile nel chiuso di alcune stanze del suo centro estetico manifestare, come dire, concretamente con la presenza, la solidarietà, piuttosto che invece manifestarla a parole, no? Fuori dal chiuso delle stanze. Sì, questo è vero, sì. È più facile che loro, stando con me da vicino, riescono a essere molto più vicini, invece dal di fuori sono un attimino più lontane. Indubbiamente, diciamo così, che per esempio incontrarla per strada e stringere la mano può essere più come dire, compromettente agli occhi di una certa parte della cittadinanza che non invece recarsi presso il suo studio e lì dirle brava, hai fatto bene. Va molto molto meglio, all'inizio è stato così, però adesso va molto molto meglio, la gente anche per strada adesso mi è vicina, le cose sono migliorate tanto, perché insomma avere coraggio, fare certe cose, poi sono l'unica abitonto che ha fatto una scelta così forte. Ecco, io le stavo proprio chiedendo questo qui. C'è proprio una stima anche da parte della gente, è difficile, però pian piano si arriva, bene. Si arriva ad arrivare, sì, anche perché insomma non è facile, ecco, sì. Lei mi ha preceduto, diciamo così, in un ragionamento, ha detto sono l'unica abitonto che ha avuto il coraggio di fare quello che ha fatto, vale a dire denunciare gli usurai. Tra l'altro, prima di giungere all'altra domanda, piccola parentesi, vorrei aprire con lei, sono stati arrestate le persone che lei ha denunciato o sono ancora a piede libero? No, le persone che ho denunciato sono state arrestate. Poi volevo comunque fare un'affermazione, che io prima di arrivare qui da Renato De Ciciolo mi ero rivolta ad altre associazioni, le quali mi hanno fatto denunciare, e questa è una cosa importante che io volevo dire. Prego, mi hanno fatto denunciare, prego. E mi hanno lasciato allo sbaraglio, perché quando sono arrivata a Bitonto dopo un'ora dalla denuncia ho trovato tutti gli usurai alla stazione. Ah, benissimo, quindi vuol dire che c'erano delle talpe, insomma. Certo, quindi a quel punto mi sono vista veramente, dico adesso che faccio, ho toccato veramente il fondo. Certo. Poi per fortuna sono riuscita, questo è un appello che voglio fare sulle persone che insomma vivono il mio stesso problema. Beh, guardi, io glielo assolutamente. Allora rilanciamolo chiaro e tondo questo appello, signora Castellano. Attenzione, anche tra chi fa della lotta al racket, all'usura, una missione di vita, ci sono cialtroni di impostori, così come ci sono tra i giornalisti, tra i preti, tra i magistrati, tra le forze dell'ordine e tra i parolai dell'antimafia. Quindi è importante quello che ci sta dicendo la signora Castellano. Ripetiamo dunque che c'è www.antiracketpuglia.it. Allora, detto questo, signora Castellano, la domanda che volevo farle conclusiva è questo. Conosce qualcun altro al quale lei sta dicendo ma dai, rivolgiti all'Antiracket Puglia, dammi retta, fai questo passo, non te ne pentirai. Ne conosce qualcuno? Sì, tanti. Anche perché da quando sono sotto aggrafio molta gente praticamente mi chiama e sono diventata un punto di riferimento per il mio paese. Spero che piano piano, perché non è una decisione che uno può prendere dalla sera alla mattina, denunciare, però che piano piano lo facciano. Alcuni l'hanno già fatto. Le posso assicurare che sono in tante. Beh, purtroppo sì, lo posso credere facilmente, visto che purtroppo la piaga del racket dell'usura colpisce centinaia di migliaia, anzi milioni di persone in Italia, direttamente o indirettamente, l'intero paese, perché è una piaga. Ringrazio per la sua testimonianza Angela Castellano, dico grazie in regia Giacomo Spunta e in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.